Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi abbiamo la fortuna di parlare di gastronomia. Siamo vicini all'inizio delle feste natalizie e magari molti di noi ancora non hanno deciso cosa mettere non sotto l'albero di Natale ma sulla tavola. E abbiamo qualcuno qui in collegamento che può darci sicuramente molti suggerimenti. Lei è Alessandra Anguillari, che è cofondatrice di Dream.com. Buongiorno. Buongiorno Claudio, grazie per questa opportunità. Dream è un mercato virtuale dove abbiamo creato le vetrine delle migliori botteghe dell'enogastronomia bolognese per dare l'opportunità a chi vuol fare una spesa di qualità anche online e quindi non solo dovendosi rivolgere ai canali della grande distribuzione. E ricordiamo allora Dream.com per chi non lo conoscesse ancora, con 3 I Dream, giusto? Assolutamente sì, con 3 I, diciamo richiama un po' il campanello della bicicletta, perché noi facciamo una consegna ecologica, quindi le nostre consegne sono tramite biker che utilizzano mezzi biciclette oppure mezzi elettrici, e il campanello della casa, quando arriviamo suoniamo il campanello con un Dream, quindi questo è un po' il richiamo al nostro nome. Questa mi sembra una bella risposta, insomma, a questo periodo che ci impone quasi la clausura e comunque non ci permette di andare liberi per botteghe a scegliere i migliori cibi per la nostra famiglia, per le nostre feste. Insomma, in questo modo avete pensato di rispondere a una necessità che penso sia di tutti. Sì, questa idea è nata a marzo, quando appunto siamo andati purtroppo in lockdown generale e ci siamo resi conto appunto che fare la spesa era veramente complicato, era un'esigenza di tutti, ma era davvero complicato. Quindi abbiamo sviluppato questa idea, che abbiamo lanciato a metà ottobre. Siamo online da praticamente 2 mesi, però già molti clienti si stanno rivolgendo alla nostra piattaforma per fare la spesa di tutti i giorni, perché possono essere o in smart working, bloccati a casa per 1000 motivi, non necessariamente i peggiori, ma insomma possono esserci 1000 motivazioni, e la comodità di non fare la fila, di non dover fare delle file molto lunghe che in questo momento ci costringono a fare, perché non si può entrare nei negozi, perché magari può esserci brutto tempo, e quindi la comodità di avere la spesa portata direttamente a casa scegliendo da più botteghe. Diciamo che mi è capitato poco tempo fa, una ragazza ha chiamato, ha mandato un ordine per i suoi parenti, lei risiede in Puglia e ha fatto l'ordine per i suoi parenti che non si potranno spostare da Bologna, e ha voluto farle capitare un ordine direttamente a loro come una coccola, una vicinanza. Quindi noi siamo riusciti ad aiutarla in questo e ci ha fatto molto piacere. Ci sono anche clienti che ordinano per i genitori anziani che non si possono spostare, non vogliono prendere i mezzi, non hanno voglia di caricarsi di spese pesanti, ma vogliono continuare a fare la spesa nelle loro botteghe abitudinarie, e quindi fanno l'ordine per queste persone o gli insegnano a fare gli ordini da Dream, e quindi riescono a continuare ad avere i loro prodotti preferiti. Ma sì, poi la cosa bella appunto è che magari, come ci sono già gli e-commerce dei supermercati, voi siete riusciti a mettere insieme tante botteghe bolognesi che in qualche modo rappresentano anche un valore culturale oltre che gastronomico. Assolutamente, c'è la volontà di sostenere le botteghe storiche di Bologna, di tradizione, quelle che fanno selezione, che hanno una grande attenzione all'artigianalità, che ovviamente fanno più fatica in questo periodo rispetto a una grande distribuzione che comunque ha le spalle larghe e ha altre capacità. Quindi è un modo per sostenere la città, per renderla più viva, più vivace, per essere vicini a questi negozi che insomma in questo momento fanno un po' fatica, perché la pandemia ha creato delle abitudini un po' complicate, ecco, sì, anche negli acquisti. No, leggiamo ovunque: comprate dalle botteghe di fiducia, tenete viva, poi però ci dicono anche di restare a casa. Io direi che Dream.com è una maniera che risponde a entrambe le cose, insomma doppiamente meritevole. Ti ringraziamo Alessandra per essere stata qui con noi, e poi per chiunque volesse saperne di più invitiamo ad andare proprio sul sito dream.com, ricordiamo Dream con 3 I, e poi buone feste a tutti. Grazie Claudio, grazie a tutti i radioascoltatori di Radio Fujiko.